down in Sierra Leone. He's an instrument of war brutality, a victim of the world's atrocity. My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Yo. Bene, lunedì sono le 9 e 4 minuti. E cosa succede tutti i lunedì? Ma ci sta che inizia la trasmissione. Inizia una trasmissione di disadattati che si chiama Ragnar Pfizer. Bitches. Guarda per te. Bene, ben trovati, lunedì sera e facciamo i seri. Siete in ascolto di Controradio, ai microfoni Duccio and Colossius. Oh, Andrea. Se ci volete chiamare, il nostro numero è 055-73-999-33-33, like the motherfucking Trentini. Come la pizza. Come la pizza. E se ci volete raccontare i vostri fatti, saremo i vostri magalli. Eh? se volete vi facciamo d'agenzia matrimoniale, saremo anche la vostra Marta Flavi. Anche. Marta Flavor. Volete un po' di numeri dell'otto, anche. Saremo i vostri Massimo Giletti. Sui numeri siamo, da numeri siamo forti. Da numeri siamo forti. Bene, bando alle ciance, Tommy è già in posizione, vi beccate i suoi 20 minuti di selezione. Yo! Alulu! Il fondatore dell'estate, un vecchio gioca a carte e salta il banco dopo la sua escalation, è tanto stanco. Sugli alberi le scimmie cloroformizzate raccontano le storie delle fate, un quadro di Guttuso messo all'asta in un mercato fa il piano quinquennale del quest'anno. Un inverno disertore annuncia il fallimento di Sapporo, la strada mandarino e latte caldo non la conosco dove porterà. Thank you.

making sure that she really cares. Happiness will be mine underneath the stars that shine. Here's hoping she will be always standing here by me. Gonna tell the whole world over, now I found the one I love. Gonna praise and thank the Lord above. Ganja. Batman no espaço sideral. Attention, please. Attention, please. Atenção, por favor. Contagem regressiva para o lançamento do primeiro foguete à Lua. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Batman falando. Batman falando. Mensagem recebida. Dentro de um minuto aí estarei. Just a moment. We'll be right back. วัสดีครับคุณสุภาพสตรีที่น่ารักทั้งหลายวันนี้กระผมได้นำสินค้าชั้นหนึ่งจากเมืองนอกเขตเทศบาลมาโฆษณาให้ท่านได้รับทราบไว้เมื่อท่านฟังผมโฆษณาสรรพคุณแล้วเชิญรีบซื้อหาไปใช้ทันทีรับรองว่าได้ผล 1,000% แน่ๆ แ น่คุณสุภาพสตรีฟังผมหน่อยสิผมมีข่าวดีจะบอกหากหน้าคุณมีสิวมีฝ้าเม็ดมาหือมาบ่ต้องกลัวดอกผมมียาทาผู้ผายปั๊บเป็นยาลับๆตำรับเมืองนอกระวังเด้อจะเจอยาปลอมระวังเด้อจะเจอยาปลอมเดี๋ยวหน้าพยอมจะผ่านทะลอก แล้วหน้าค่าตังอย่างอันเนี่ยทายาที่คุณโฆษณาแล้วจะหายไหมคะ หายสิครับพอคุณทาปุ๊บเนี่ยหน้าคุณก็จะยุบทันทีครับ แหมดีจังยาอะไรคะ น้ำกรดไงนะครับ ตะเถน คุณสุภาพสตรีฟังผมหน่อยสิผมมีข่าวดีจะบอกหากผิวคุณนั้นดำมาเมียมก็ต้องกระเดียมอายเหนียมกันดอกผมมียาชั้นหนึ่งเชียวครับผู้ใดอาบปั๊บรับรองขาววอกผิวจะขาวสาวขึ้นทันใดผิวจะขาวสาวขึ้นทันใด ยี่ยี่ยี ่สวยชัยไล่ยิ่งกว่าไข่ปอก Questo è l'ultimo pezzo di quel cantautore della Strassigna, ti ricordi? Proprio in dialetto di lastra in lastra signese. Senti. Solite storiacce della vita di strada di lastra signa. Storie così, prostituzione. Si scherza, eh? Saluti a quelli della Strassigna. Posto tranquillo, non è vero, c'è tutta questa storia. Allora, ricordiamo un po' di robine. Questa la dico subito, così, visto che mi ha telefonato mentre era a suonare. Maleducazione. Ecco. E venerdì, mi ero un attimo incartato. Venerdì 20, questa settimana, se siete dalle parti di Colle Valdelsa, c'è il buon Natti, insomma, Just Station Sound System in session al Sonar. Da tenere d'occhio perché poi prossimamente ci sarà anche Channel One, sempre al Sonar. E questa era per dire una seratina. Poi invece, a proposito di uscite, è uscito l'album di Kappa, che si chiama Tribal Dances, su Bedroom Research. Etichetta già decantata quando si parlava delle uscite di Digi Galessio. E a proposito di Digi Galessio, invece è uscito Uxo versus Digi, questo su Plint, però altra etichetta sempre spesso ricordata in questa trasmission. Quindi se li cercate andate sui rispettivi siti, quello di Bedroom Research e quello di Plint, e li trovate lì. Altro? A posto così? Si fa il prossimo turno. Vai, va bene. Lasciamo andare... Ciodromo. Lasciamo andare... Il buon Duce. Vai. We'll be right back. Who only look at black and Puerto Rican porno, 'cause they want something that their dad don't got, then you know where you're at. Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke in a Starbucks bathroom with the door closed on. If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno, If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno, 'cause they want something that their dad don't got, then you know where you're at. Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke in a Starbucks bathroom with the door closed on booze. I'm left in residue and confused, like the first time you used soft. Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck. Sinking in laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in laughing at something sunken in I am. Tickets at the free bar at my cousin's bat mitzvah. Cutting the punchline and it ain't no joke. Devoid of all hope, circus mirrors and pot smoke. Picking fights on dyke night at Shirley's and Lokes. And snatching purses, doing out in the karaoke and forgetting all the verses. Blowing kisses to disinterested bitches. Playing lead lay in a bad way on Broadway. Sending sexy SMSs to my ex's new man, 'cause I can. On the road trying to break an old band. Eating pussy for new fans. I am, what the hell, using Purell till my hands bleed and swell. Missing Mel at a Motel 6, I'm unwell. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. If I'm sinking and laughing at something sunken in I am. There I go. Jesus, don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. And don't expect me to cry for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to die for Pezzo mi riguarda molto da vicino perché parla della nicotina. Vabbè, guarda, guarda, ce l'ho qui. Quindi tagliamo corto perché devo andare a fumare una sigaretta. Lanciamo un messaggio. Lanciamo un messaggio, un aiutatemi, messaggio buono. Aiutatemi. A parte gli scherzi, le cose che hai cancellato da questo foglietto sono quelle che hai già detto, vero? Mm-hmm. Allora, partiamo a... Diciamo di Uxo, quindi ci ha detto che Uxo e Digi hanno fatto l'album Supplint insieme. Sì, sì. Di Uxo dobbiamo dire anche un altro paio di robe, ovvero che se andate su Urban Wave Records, .bandcamp.com, è uscita una compilation che si chiama Intergalactic Travels e c'è un botto di tracce e c'è anche un pezzo di Uxo dentro. E lo trovate come Ghost Event. Lo stesso Uxo ha fatto anche un podcast per G-Ska, per Amp Soul, che è il blog di G-Scarlet di Beat Dimension. Mm-hmm. Cinnamon, olandese. Stavo per dire nederlandese. Stai per dire l'olandese volante? No, stavo per dire nederlandese. poi ho detto oddio. Olandese. Quindi se andate su ampsoul.blogspot.com vi sentite questo podcast. Saluti all'instancabile Ux. Saluti a Marco. No, poi visto che avevo messo un pezzo di Zola Jesus, a febbraio dovrebbe uscire esce un 45 giri in edizione limitata, poi credo che esca anche in digitale, di un remix che ha fatto appunto del pezzo che ho messo, In Your Nature, di David Lynch. Mm-hmm. E, insomma, è una roba importante perché Zola Jesus non è una che si fa remixare tanto facilmente. Però, davanti, no? Io che sinceramente, fa, gli dici di no? Cioè, se mi suona il campanello e ti chiama Lynch e ti dice mi prende a bere un remix, che gli mi dici, fai no? Un toast, cioè, certo, cioè, scusa, mi vieni a pulire il bagno, perché arrivo, avevo già comprato il prodotto in mocio, cioè, chiaro, stavo arrivando. È chiaro. Poi buttate un occhio su strettoblaster.blogspot.com, che è un blog dove potete trovare sia podcast sia robe interessanti. E un saluto a Fiume, che è l'owner. Diciamo, un saluto al Fiume, che è l'owner. Un saluto anche a Eleonora, che ci sta ascoltando. Uè. E basta, le altre robe. E poi a proposito di Jesus quella canzone ce l'hanno scritta per me, capito? Jesus, no, don't want me for a sunbeam, cause sunbeam are not made like me. Cioè, è proprio triste quella canzone. Infatti, guarda. Cioè, Gesù non mi vuole come un raggio di sole, perché i raggi di sole non sono come me. Io quando sento quel pezzo, in motorino mi vorrei andare a schiantare. Madonna, Duccio. Dio santissimo, proprio. Però, vabbè, cioè, è un pezzo veramente bello. Da di cuore, lo dice proprio di cuore. Da sentire la mattina, insomma. Cioè, ti svegli, metti quella, sì, e poi dici: ah, andiamo a lavorare, vai. Cioè, dici: ah, c'è il sole, non potrò mai. Gesù non mi vorrà mai come un raggio di sole, perché i raggi di sole non sono come me. Quindi a quel punto puoi scegliere se buttarti dalla finestra. No, la mattina ti svegli, lo metti e dici: ah, andiamo ai forti. Come andiamo ai forti? Ah, sì, infatti. No, ah, andiamo in sa. Dici: ah, andiamo in San Pierino. Vabbè, c'è Biga, va, ci sentiamo dopo. A dopo. It's raining today, and I'm just about to forget. That wonderful day we met, she smiles through the smoke from my ensino a namorar. Vila Bela não tem mais ocupação. É só viver na janela, namorando o lampião. Another love's behind. She said it'll be good. mais nada, me apresento outra vez. Peso pesado do Mike, 10, 1, 2, 3. Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba. Eu tenho força e coragem de um guerreiro que ama e vê se me escuta. E a minha é a batida perfeita, eu tô na luta. Respeito só tem quem respeita, então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar, fingindo te advogar, mas na hora que o bicho pega o tal Zé, nunca tá lá. Tá louco é pra atrapalhar, mas tu sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Protagonista de um filme que não tem dublê. De orçamento, baixa sucesso na TV. Eu mato a bola do jeito que ela vem. Eu faço samba tipo Sabotagem, rap tipo Jorge Ben. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando um sonho da gente resolve um dia acordar. Ninguém é melhor que ninguém. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando um sonho da gente resolve um dia acordar. Então controla, se a marcação aperta, passa a bola. Não dá mole, a vida é curta, a hora é agora. Então resolve de que lado você tá, não demora. O tempo passa, o flow vai e a base volta. Se as garotas do Leblon agora olham pra mim, vou te falar, compadre, que nem foi sempre assim. Batalhador, quando os flashes estão pra mim, eu não corro. Nunca se esqueça que eu sou criado, morro. Então não leve a mal, não leve a mal. Eu sou daqueles que ainda distinguem o bem do mal. A minha luta é a procura da batida perfeita. Você faz a cama que você deita. A hip hop Rio represento. A manifesto também represento. A namoral eu represento. A procura da batida perfeita eu represento. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. Eu sou o Zequete da Portela, vim trazer o meu samba da forma mais autêntica para o nosso querido e amigo povo brasileiro. Obrigado. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Desilusão. É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar e não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer. E a gente morre sem querer morrer. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão, e tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor, um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do asfalto, Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Tá na linha de frente, não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Quem tá na linha de frente, não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. O nó da tua orelha ainda dói em mim. Cebolinha mandou avisar, quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão, tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor, um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do asfalto, Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Thank you. 34 anos faz e a febre sempre está nos postais. E pensar em meus pais e meus avós, que sou dois inimigos, eu só. E a batalha continua franca e aberta. Allora, notizia flash: è morto Jimmy Hasta. Madonna. Para pa pa pa pa pa para fa para fa. Eh sì, eh. Oh. Tocca sempre. Basta, cioè, ora non voglio mettermi a dire chi è Jimmy Hasta. Non voglio fare, non voglio fare il moralista. Basta così. Però ci sembra che la gente venga a mancare sempre di lunedì, che, cioè, esatto, e a noi tocca qua, l'arduo figlia, compito. Vabbè, no, era giusto così, ragazzi, per dirla, insomma, no? Cioè, come notizia. L'anno prossimo questo programma non si chiamerà più Ragnar Paisa, ma si chiamerà Ofisa. Madonna, santissimissima. E con questo ho detto tutto. Infatti, guarda, finisci di dire che quello che devi dire, per no, favore. No, volevo giusto accennare, perché ci aveva scritto un ragazzo che è un produttore italiano che vive a Berlino, mm-hmm, e ha questo progetto che si chiama God Bless Computers. Ha collezionato un po' di produzioni che potete andare a scaricarvi su godblesscomputers.bandcamp.com. Mm-hmm. Ora, data la mia perenne disorganizzazione, non ce l'ho fatta a mettere insieme le robe per suonarle. Vabbè. Comunque, magari intanto, lo diciamo, intanto lo diciamo. Intanto, se volete andare a sentirvi le sue robe, potete andare a godblesscomputers.bandcamp.com. E si chiama The Last One. No, The Last One, The Last Swan. Non so se dice Swan o Swancigno. Come Swan? Si dice Swan, Swan o Swan? Swan. Swan, giusto? Swan. Swan. Insomma, l'ultimo cigno sarebbe. Ok. The Last Swan. E niente, poi ora, magari la settimana prossima abbiamo tempo di suonare anche le produzioni nuove di Digi, di K, tutte le robe che oggi abbiamo detto e poi non abbiamo suonato. Dimmi, che dicevi? L'ultimo cigno, dedicata all'ultimo cigno, rimasta alla fortezza, sì, nel laghetto. Nel laghetto. Ce n'è più. Poi sta andando sotto zero, sicché, cioè, è già da diversi giorni che è sotto zero, quindi, povero cigno, mi sa che va un pappardello. Vabbè, come basta. Stanno? Sarà buono il cigno da mangiare? Non lo so, si può provare. È buono il cigno, France? È buono il cigno ma? Da mangiare? La risposta è stata, ma? Oh, intanto, France e grana. Irene, l'avevamo detto in studio. Irene in studio, in the house. Grana in the house, France in the house, nonostante sia senza le caramelle. Senza capelli. Senza capelli e senza... Everybody in the house. E senza le caramelle. Come vecchio? Cigno, ah, dice grana il cigno alla cacciatore. Cioè, te che sei, cioè, che un mangiatore di cigni. È vero. No, ma il cigno che avevi, cioè, l'hai tenuto in giardino il cigno per non si sa quanti anni. No, poi lo voleva uccidere per mangiarlo e poi è morto da solo. Com'è che si chiamava? Com'è che Isotta. Isotta, rest in peace. Rest in peace. Guarda cosa faccio. Verso un goccio di birra. Per Isotta. Interno. Gun but not forgotten. Gun but not forgotten. Vabbè, basta, guarda. Ci sentiamo lunedì prossimo. Colossius. Thank you. 这时狂风暴雨骤然而下，小玲带着悲愤的心情。 Tumors and animals, and human stem cells. Niggas wanna shoot the fair, you can get that. We now come to a rather intriguing test in which a continual no response is going to suddenly change into a yes direction. Watch this. Swing deep within your unconscious. Watch this. Way by lowering it till it touches the watch the swing. We'll be right back.